Andrea ha chiamato da Como, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, grazie della linea. Ascolti, io sono un forte tifoso juventino e dopo ieri sera mi sento un po' frastornato, un po' perché stimo Conte, ma dall'altro lo considero anche un po' esagerato quello che ha detto ieri. Però volevo fare una riflessione proprio tecnica. Secondo me la Juventus ha proprio fuori forma completa sia Vidal che Marchisio, vabbè, non dico niente di nuovo. No, infatti, Però però ogni tanto è bene ripassarlo, insomma. secondo me il punto è proprio quello: non abbiamo alternative a questi due giocatori che ci hanno trainato nella prima parte di campionato. E adesso questi pareggi, nonostante che ieri poi meritavamo i 3 punti, perché secondo me erano meritati. Certo, d'accordissimo. Però noi adesso che ci servono questi due uomini non li abbiamo, quindi secondo me il campionato comincia a scricchiolare un po' la Juventus, perché il Milan queste partite qui le vince, perché ha non solo Nocerino, non ha solo Boateng, ma c'ha anche solo Ibrahimovic, c'ha Robinho, c'ha tutta questa gente qui che comunque va a tappare i buchi di una mancanza. La Juve purtroppo con due mancanze pesanti che sono, ripeto, Marchisio e Vidal, non ha chi li copre, insomma niente, questa è la mia riflessione. Che è una riflessione, mi sembra intelligente e documentata, caro Andrea.